Senta Marino, Marino, Marino. Vicino a Cogio, dove c'è quello più di quel negozio di che vende roba per auto. Lì vieni. Via Catalupino. Via Napoli, angolo via Catalupino. No, appena più avanti rimani del negozio. Noi siamo già in periferia, potresti trovare. Quindi a Puglia. Ma tu sei pronto quando sei andato? Se no, fai il giro, l'isolato, vieni via Catalupino. E anche lui lo farai lì. Sì, anche lui già era ciao. Purtroppo me provando, me le riconosce, però non me lo. Nel computer non me lo fa vedere. Ecco cos'è. Ma ne ho uno da 320, che dice da 1000, che è da 320. Buon quinto, e mi posso andare con quinto. Ok, 320, allora voglio girare. Ma nel computer lo viene subito, lo viene, a meno che non mi prendo di comunque di un hard disk esterno. Cos'è, un PC oppure quello da base? Quello da base, proprio di quelli fissi. Gli devo dare quello lì, il case gli devo dare. Il monitor e cose sono buoni. Devo pregare dei monitor. Il servizio del piccolino che hai comprato, devo pregare che ci vado il monitor. Buonasera. Baciami le voci. Buonasera anche a te, mamma. Abbastanza non ne ho di monitor io, e con le cose, il monitor che faccio sono rimane, aggiungo giù, e boh. Già ce l'ha lui. Batti Manuel. Ciao Antone, ciao Batti, ben ascoltati, dai, riprendi tu. Ok. Sempre affariato tu sei, carta. Lo cabba già mi tocca. Avanti signor Bacchi. Ciao Manuele, buonasera Manuele, ben ascoltato, ben spucciato, ben tutto. E come la va? Lui lascia perdere, siamo tutti a dolori. Siamo tutti a dolori, Bacchi, cazzo di Mario, uno di 70 anni, mi manco di 70 anni. Lui, per carità, non ce la faccio neanche a camminare. Venite da me e ti do un po'. Qual è la campagna di strascini? Io tutte e due. La sinistra, a volte è per la chiarezza, no si comprende più nulla. Il veterinario ha fatto una vista e devo fare delle lastre e troppa guaglia. E dunque da domani ci mettiamo in linea a vedere un po' cosa succede. Vabbè, io ho fatto la risonanza, mi hanno detto che c'è questo problema qua, ma Guido Capoccia ha detto che non è operabile. L'altro di Alghero mi ha detto, se non ti passiamo queste pastiglie, devi operarti, vai tu e gli con i brilli. Ho due fratture al bacino e l'altro mi ha detto che mi ha fatto un dolore. E quello è il dolore. Ma io ho fatto il bacino dal bacino, ho due dischi spostati, il D5 e l'E4. Vai Tore. Allora mi pare che dici due dischi te li devi punire a posto, bisogna operarti. Devo fare la... adesso con questo casino qua vado, ma per carità. Adesso vediamo un po', quando si calma vado a casa, le prendo appuntamento e mi posso all'asio operano, capito? all'Ace che fanno la colazione. Ciao Patti. Ehi, tu vieni. Anche al maestro, se non ti passa con questa roba che sto andando, bisogna che ti ricoveri 40 giorni di letto. Ma io domani vado, come che ho fatto ciò che vuoi, stato in casa. Infatti è così, signor Bacchino, tutta cosa che vede, non bisogna andare nessun luogo. No, capito, stavo ascoltando mia moglie e io ce l'ho scusato, tutto il computino. Ripetito. Ho detto che con questa cosa qua è meglio non andarvi anch'io. Quando è passato tutto allora sì. Sì, io farei così. Scusa un attimino che rispondo a mia moglie. Manuel! Ehi, Ato, dimmi. E tu hai bisogno che ti pigli l'appuntamento e andi anche da a Cagliari. Adesso sì, ho già chiamato, c'è stato un problema che per il dottore, non so, non c'era il dottore quello. E adesso vediamo dopo le feste mi faccio fare l'impegnativa per fare questa roba qua, perché cazzo non posso stare così a dottore. Oggi sono andato da Blicco, ma è pomeriggio, mi dovevo sedere che non ce la faccio a stare in piedi. Niente, mi assembro più che racconto così, bubu. Quello lì è il lavoro che facevo. Il lavoro che facevo non ci pensavo e poi adesso ne ho messo anche le conseguenze, capito? Sono tutto un buco magico, infatti mi ha detto quando mi ha visitato il dottore, fa ma che lavoro fa lì? Ho fatto che facevo di lavoro e fa il posato di marmo. Ah, e allora è per quello. Mi fa, deve anche abbassare anche il peso perché dipende anche dal peso. Mangiare giusto è bene, devi mangiare. Non roba, né cose né nulla. Mi fa un poco di dieta. Arrivato. Vai chi, ripiglia, che mi assento un attimo, vai. Ehi, aspetta che ti dico la dieta mia, non lo è, un attimino. Allora, cosa il medico mi ha dato come cura? 50-60 grammi di pasta, brodo in abbondanza, e una pera cotta la notte, così, pranzo e cena, colazione niente, e ci sono quasi altro 4 kg. In casa, se mi metto a mangiare quella roba lì mi trovano in terra a me. Sì, mi gioco per di rossa, e mi ha messo via, ci dovevo dire, fammi un bel piatto di pasta asciutta, me lo mangio. Ah, oh, se mangio quella roba lì, ma chi, te l'ho detto, mi trovano in terra, mi devono portare di cosa a pronto soccorso per cose di che non mangio. Poi c'è venuto, ormai c'è verdura. Hai già aprito un cannavolo, un buon racconto, mi hai segnato di campagna, mi sa la zea. Io adesso l'ho già mangiato io a mezzogiorno, mi ho fatto in forno il porcetto con patate, mezzo litro di vino bianco, ale, e poi un bel piatto di pasta con ragù. Andare, mi ci vedi morito. Non è posto, dunque devo stare a Lenza, qui Sapera. E se poco che mi fia, devo cucciare in mezzo, e se devo cucciare al secondo minuto. Oh, io non ci riuscirei mai a fare così, ma chi, lascia perdere, vai tu. Ma da voi non te la metà che fai i dolori, un po' devi scendere, e anche il peso che c'hai mi che te lo fa. Ma sono magrolino, tu, ci hai visto, sono magrolino. Che cazzo magrolino, non me ne fa di parolacci. Cazzo, magrolino, ma visto mai a me canto bisù, eh? Fate il giro da Marino. Sì, la Manuele, mi ha detto che è magrolino, Senta, mi faccio ridere, mi faccio, mi si capare a risa. Riprende Mari, buonasera. Siamo lì, è bene la soluzione. E buonasera Mari, ben ascoltato. Grazie della commissione che hai fatto. Sì, venuto, venuto, mi ha visitato. Mi ha visitato, dunque devo fare una serie di lastre. Ma saranno 8 o 10 lastre devo fare. Adesso lui, guardando così lui, ma ci sono due fratture. Bisogna vedere un po' se quello lì, se sono piccole o grandi. E bisogna fare le lastre. Dunque da domani mi metterò in movimento a cercare di fare queste lastre. Poi una volta che ho le lastre in mano mi dice cos'è e cosa non è. Ma cosa devo fare? Ho preso già due pastiglie che mi ha dato l'amico Giorno. Sono ordinato, non faccio dolore. Poca legge, viraggio, ma ce ne sono degli. Sì, Marino, cosa mi racconti? Che da un po' che non ti sento. Ho detto Marino, mi ha abbandonato Marino, non si è più fatto vedere, neanche più fatto sentire. E così, va bene così, dai, avanti Marino ancora, poi fa girare. Ehi, schietta, dai, andemmo. Fate bene fratelli. Controlli, per andare a fare i controlli consumano carburante, stanno in casa, capito? E ma già le stanno peccando, ogni tanto uno la sciapoli. Niente, non le fanno controlli romani. Anche loro hanno paura di andare in mezzo alla gente. E un attimo, adesso smontando tutta l'apparecchiatura, mettendo tutto dentro le scatole. Vai ancora Marì. E poi ti spiego, dai, poi ti spiego Marì. Ehi, a tirare le scatole. È così, io. Purtroppo. La gente non la vuole capire. Che affollando tutto quanto. No, sono ridendi. Che siano in mezzo e poi si arrangino. È proprio così. Ma a Sasso io penso il 90% non le stanno usando. Minimo. Che quelle prese in giro, nulla, non vuole nulla. Magari anche il contagioso quello lì. Oppure se la becca da qualche altro. Bisogna rispettare le leggi, bisogna rispettarle se vogliamo andare avanti. Perché la Sardegna mi pare come se da superare o Piemonte alla Lombardia. Erano contagiati, la figlia la prima che è passata. Dalla figlia hanno chiuso tutto. Ieri. Hanno scontato tutto, perché anche Massimo era impregnato lì. L'è passato tutto, è arrivato anche dalla quarantena e l'è passato tutto, vuol dire che non era beccato da me. E vabbè, sarà così, sarà, già si rimetteranno. Vuol dire che oggi dobbiamo rimanere a becco e piano piano vanno avanti. Avanti girare a Gio Maria pure. Aspetta a vedere, avanti Gio Maria. Buonasera. Buonasera Bacchiglio, buonasera Marino, buonasera Emanuele. Mi sta ascoltando, dai, che sto guardando il film, già entro dopo. Siamo qua Gianmarì, buonasera. Avanti signor Bacchi. Salutiamo signor Figaro, buonasera Gianmarì, buona visione di TV. Ci sentiamo, no, tra un po', no, sente la gola. E così è. Avanti dopo. Eia. Purtroppo è così, vabbè, già ce ne... già si rifaranno quelli che sono senza mascherina, anche se l'abbia fatta una bella sanzione, avevi visto che se l'abbia buttata la mascherina. Vabbè, avanti signor Marì, infatti, si fa così, a manco una gascia sazza, e giù baedi, a manco l'intendini. Se deve venire la mascherina invece di stare senza mascherina. E alle 10 devono essere a casa. Sì, subito. Manuel, rientrato sì. Io non posso rientrare a quell'ora. Perché dovevo tornare. Io a quell'ora sto iniziando il lavoro, fino alle 6 del mattino. Vai tu. E vai tu. Io esce il mattino, mi pare che tu sei di 38 sino all'8. Ah, noi. E cazzo, fino all'ultimo di sicuro, però mi dicendo oh, 5:30, sì. Però rimane 30 rubetti. Abbiamo, abbiamo. Avanti, signor Bacchi. Non c'è nessun problema. Sì, signore, sì, sono già sveglio. Sì, 5:30, sì, sto qui a pronto partito. Via da te, via da te, Mari. Oh, io non so più neanche come si fa più. Via, già è bella, ti lo so con i freni, ma non me li devi mandare così, io devo rincarri. Dovevo in cose, dovevo... accontentati di chi c'è, Barabà? Lo sa di vedi. Io non so con i freni, otto. Non so più da che... come cominciare, non so più fare. Ho perso i movimenti. Una bambola di plastica, di bigli. Vai, Bacchi. Non mi credi la mattone, mio Mario. Vai, la zucchio. Due righe più del diavolo. Capito? Non so, due righe più del diavolo, Tore. Fare così, invece, è grande esperto in materia. Allora, signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare. Adesso non so come ti fa, ti fa imparare a torre con una bambola di plastica. Ho detto che non so più come ti fa, che no. Una bambola di plastica si piglia, è fatta così. Lo sì, Mari, meno male che ci pensi tu, meno male che ci pensi tu, non mi pensa a dove, no? Io non so, non mi pensa a me, Vittore. Mari, lo sì, Mari, come ti si devi? Ma da chi? Stiamo parlando, di acqua calda, usa la bottiglia dell'acqua la notte, il coso, vabbè, allora ci penso loro io, le prendi tu. Ma la borsa calda per il braccio, non pensa altra maniera. Oggi sono con tutta la dico che sono d'onore, pensa un poco. E allora, è così, due malizioni, dottore, boh, subito a pensare a Mari. Ti stavo dicendo, Mari, ho piazzato tutto l'impianto, come ti l'ho già fatto, mi si è pagato un metro di cameretta. Ho detto, ho piazzato tutto l'impianto. Come l'ho sollevato, mi si è spaccato il vetro della finestra. Ma di nell'aria. Aspetta, è stato il vibratore, sì. No, io vibratore non ne uso. Se vuol dire che tu hai acceso un impianto stereo a tutto volume e sei spaccato lo freddo. Attimo la porta. Guai, ma noi ci siamo avuti da dentro, Tore, cosa è lo stesso? E chi mi dice ha usato l'amplificatore, ha usato, c'è cribato lo freddo? No, non è una folla di freddo, no. È una folla di freddo, visto, no, folla di gomma. Non lo so, Bacchi, non c'ero io. Cosa ha usato Edo? Ah, non vedo io, no. Io non vedo che ero a contare il computer, no, quindi ero indaffarato. Ma lì, se vuoi aggiustare il computer dalla ditta, Tore che il capo è tolto, il squalo. Tore squalo è il più forte che ci sia alla riparazione. Infatti. Ah, sì, mi dovrei chiedere a Luca del Monte, a vedere. Si è dovuto fare. È andato che è venuta gente. Mari. Ho capito, sono arrivato adesso. Cos'è Mari? Già sono bravo, fino adesso sono bravo, poi non si sa. Sì, cura giabonetta. Ehi, tagito, cura giabonetta ed è buono. Tanto sole da prendermi là. Sto facendo sopra le preparazioni. C'era qui ogni giorno la cosa un po' piccata per fare le preparazioni. Se mi mari, se ne puoi portare qualcosa da riparare, portamela agli amici gratis. se può più conoscere se lo può pagare. Eia, eia, ehi signor Bacchi. Sono solo me che devo fare questo qua perché lo devo dare a mio fratello, sennò non me ne era fottuto nulla. Va, allora così qua si dura. L'abitano è nervoso. Me lo devo raccontare, daglielo, che chi non ha... Era tuo, mi ha dato le cugine cosa ne fa. Io più a contarlo che compagno lui, infatti anche se potrebbe contare io più a cosa, perché ha... Io sono il mio fuoco, che non mi sei il mio figlio. Mi ha portato, dai, da compagno una cosa, molto di più della bambina. No, lui... Gli devo dare una scheda video perché per un computer che va a casa sua, non so se l'ha avuto. E mi ha detto a riganire un computer. Dico, di mettergliela a posto e portarglielo. No, mio fratello. No, mi ha detto, dice, mettermelo a posto. E poi, quando è pronto, mi chiami. Non so, me lo porti a casa. Non posso altro. Ehi, mancanza d'altro. Forse è come andare a comprare sempre. Infatti è stasera è attaccato lì, ho detto riesce a vedere. E adesso andando. Anche ieri stavo andando. L'ho spento, stasera accendo. E sento. Boom! Questa è la settimana giusta da fare. Questo è l'ultimo modo. 883. No, 889. Purtroppo. A quel coso lì devi dare attenzione ogni tanto che non esca fuori di cose. Guarda Marì se ti piace adesso. No, sai lo sai, stavo andando con l'antennino di gomma. Adesso ho messo l'antennone. Eia. Manuele. Andiamo avanti, andiamo. Purtroppo è così. Signor Bacchi, è qualcosa, con gli elementatori bisogna dargli attenzione ogni tanto. Che non se ne vada via di corrente. Comincia a essere un po' anziano, Tommy. Non dico molto molto, non voglio esagerare, ma 45 anni ce l'ho. Andando bene, io devo accendere che se l'ho controllato tutto, posso? Io devo fare. Perfetto. Dopo che è successo poco atrás. Adesso vediamo un po'. E non c'è niente di strano, è tutto in regola. Ho provato a aumentare e diminuire, uguale. Non è qualche spazio di tensione che ho fatto tratto. Infatti per quello bisogna stare attenti a non fare delle cose, sbalzi di corrente. E chiudo la finestra io, mi conosciamo chiudo la finestra della porta. Così no, bisogna stare attenti, ecco i così che brucerà parecchio così. Vediamo un po' adesso trovare la provincia. Che malattia c'ha? Io ho detto per giorni del tempo, non so se a poco lo ci vuole. Non si è dimenticato di mettersi in più, ci ho dimenticato loro. Che manca di telefono domani. Ha filtro, è nato povero. Come? No, non ne ha quello, non ne ha, è senza filtro. A fargli se si potevano piazzare, almeno a diminuire un po', se si vogliono aggiungere mettere la copro nuovo. Se sono io tutta scheda. Bacchi, i filtri costano dalle 70 a 80 euro. Anzi un filtro è. Ha un filtro solo. Io penso che ce l'abbia mia, perché ce l'ho installato uno. E l'altro di sopra che ci va e costa 70-80 euro. Poi non ne ha neanche uno, è nato così e muore così. No, ma uno ce lo deve avere, Bacchi, uno ce l'ha per forza. L'altro di sciocca è che dovrebbe avere e che non c'è, ecco cos'è. Non ho mai aperto, ma non so perché sia, non sia in maniera tua. Adesso in ospedale fanno l'operazione. Ecco, quello sì. Sicuramente ci vorrà la scheda dell'alimentazione nuova, se te l'ha bruciata. L'alimentazione va, accende, solo non parla e non sente. È diventato molto assordo. Certo, chi sa di andare a finire allora? Boh, ma è fatto durare anche i condensatori? Grazie anche. Che partono, quando partono due condensatori non fa né ricevi e né uscita. Avanti Marino. Marino dai, domani ci sentiamo, ci avvisiamo, vediamo un po' tutto. Bene, sono qui in casa, buona cena, buon tutto, buon lavoro per domani. Avanti Tore. Ok, ciao Marino, ci risentiamo domani, ok. Buona cena e tutto quanto, anche agli ascoltoni. Ok, ciao Marino. Ti prendi il Bacchi. Vediamo se Emanuele che salutare a Marino. Emanuele è impregnato, so, impregnatissimo. Vediamo qua, devo fare il giro e poi ci andiamo. Ma l'endero! Andiamo, andiamo. Cosa vi vuoi fare, Bacchi? Sicuramente ti avrà cambiare cose, sono partiti i condensatori. Tanto ho quattro condensatori da Ciambà. Ti cambierà quelli e poi vede se è da lì. Adesso c'è la mia mano, una bella controllata, una bella visita, va bene, perché se fai una visita vedi la cosa giusta, no? Va bene, una bella visita, è un bel corso fisico, la visita mi va bene, vediamo domani, ci richiama. Infatti, se non c'aveva nulla a che fare, ho detto lo guarda sì. Perché così paghiamo, decidiamo tutto così. Così aumentiamo sempre la cifra, perché non succede. Un nome, perché da parte di lui? E poi lasciamo tutto. Quello di stasera ti ha fatto, ma accendono almeno. Sì, accendono. Solo c'erano molti, infatti domani non voglio aprire il campione, riprocediamo, in molti modi. A finire il libro quello che poi non c'ho, e uno sposo, uno attaccato all'altro, quindi contro quelli, era un casino, già preso la volta a vederlo, ma vediamo un po' se ci vede qualcosa di scoppiato. Se non è partito, sono partiti i finali, tanto hanno fatto battere i finali, ma mi stavi dicendo che accende l'apparecchio. Accende, tranquillo, solo, molto, solito. Fatto partire i finali, sono partiti allora. I finali non accende, le trasmette non accende, le ricezioni le trasmissioni. Si accende solo, la trasmissione è tutto che accende, se non trasmette niente accende, l'altro indica che portato, ha lo stesso malattia di quello là. Certo, purtroppo bisogna controllare l'IVEA, vedi cos'è partuto. Penso che un quarto di temperatura, ma se sbalzo di tensione bruciava il coso, il fusibile, e invece è entrato, non mi attessi. Entrato, sei a fatto l'anno. Certo. Allora il fusibile non ha agito. Non so se si trincano, nulla. Ma in genere dovrebbe partire il fusibile, dovrebbe partire prima. E c'era, l'ha dato una bella cotturata. Poi non il fusibile al suo, ma immagina un po' il fusibile originale che c'era da quando l'ho comprato. Certo, bebù. Vuol dire che la tensione è andato dritto e il fusibile ha resistito. Oppure ha fatto un giro strano, non lo so. Che giro ha fatto, ha detto, vabbè, va bene in luce. Ma invece che invece di dare un fusibile è passato da un ied, no? Dalla massa. Può darsi anche, questo non è detto. È quello che sto pensando io, che non sia entrata a corrente nella massa tra trattiti. E ti ha bruciato il finale invece. Lo so, non lo so come si era, ma... Ma io abbiamo un portatile, si è staccato tutti i batti, la via in mano. andiamo, bubù. Dopo, bacchino, chi sta a fare te lo mio, ma te? Stavamo parlando con Manuele, l'ho messo sopra il tavolino, mi giro, mi torno a girare, lo guardo e te l'aspetto, però non l'ho acceso più. Dopo nuovo. Che fa? E un po'. Succedono anche a queste cose, e tu? Giomari, che non l'abbia fatto di coso, invece che da passare nel rosso la corrente è passata nel unido e gli ha fatto combutta, gli ha fatto il fumo. Ah beh, se c'è la limitazione a 12 volte, vabbè, quello potrebbe essere, perché certe volte anche nella massa, certe volte si trova anche leggermente di corrente e quello fa contatto, certo, e ogni tanto bisogna controllare questi fili, capito? Quando si ammazza così bisogna invertire la polarità e ritorna tutto a posto. Infatti è così, ma deve essere così. Ce la riprende signor Bacchi. Io la riprendo e chiudo, perché non so vengo così. Va bene, vi saluto, ciao Gian Maria, buonasera, saluti in casa, buonasera per tutto. Ciao Tò, anche per te, buonasera, saluti in casa, tutta la signora, a domani se consiglio. Patrizio, passa il tuo evento. Ok signor Bacchi, ci risentiamo domani, se tutto va bene. Buonasera è tutto. Gian Maria, io lo stesso chiudo anche io, così che è già ora. Ci risentiamo domani, buona cena e tutto. Ciao Gian Maria e Bacchisi, ok? D'accordo, dottor, sentiamo, dai. Ciao Bacchi, buon correnti, saluto in casa, ci sentiamo, dai. Se tutto va bene domani, ciao dottor. Buon proseguimento anche a te, buon proseguimento e serata, saluto in casa domani. Ciao. Ciao Gian Maria, ciao signor Bacchi. A Manuele di Parigi, Manuele.